Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Popolo dei Giasvegli, buongiorno. Luca Telese, Radio 24, le 6:31 minuti, 56 secondi. Incomincia ad albeggiare, il sole sorge e voi siete in giro a lavorare. Senti, un'opera pubblica, sei diventato Notav. Abbiamo Giannino Notav. Paradosso, sei primo di Notav. La voce comune dice: ma chi mo fa fame? E poi quello mi spara. A Palermo lo direbbero in altro modo. E la mi metti in mezzo e poi anche se quello mi dà una cortellata. Così. Puoi non farmi parlare quanto vuoi, ma questo è il sistema per impedire. Polizia, comandami la polizia, fai quello che cavolo ti pare. È possibile che un ragazzo bravo come te si rifugia nel paradosso? Ti ringrazio per come il ragazzo, peggior sofista. Se si del rock, a un certo punto hanno istato la bandiera del rehab. Siamo sesso, droga, rock and roll, sì, però anche l'aerobica non è male. Qualcuno mi dice: come si fa ad arrampicarsi sulle uova? È vero, è difficile. Di solito ci si arrampica sui vetri. Devo aver detto una sciocchezza mentre parlavo. Senti, uno senza punti d'appoggio, mi scivoli, è come se fossi su un ghiaccio, stai pattinando. Vuoi far circo? Io temo che sarà la mia ultima puntata, perché io non ci voglio andare nel circo quotidiano. L'informazione è un'altra cosa. Popolo di Giasvegli, buongiorno anche a voi. Oggi le 6:31 minuti e 57 secondi che scandiscono in questo momento, e noi, mentre le brume della notte si dissolvono, entriamo nelle vostre vite con il racconto della giornata. Qui al mio fianco il grande Alberto Castelvecchi. Buongiorno. Ti piace che ho fatto il corretto? Mi è piaciuto il grande. Ah, ecco. E allora sapete che ancora sul tamburo della Catalogna un filo collega l'Italia e la Spagna, la crisi spagnola. C'è anche una polemica che esplode oggi fra la Meloni e la Lega. Sapete che c'è stato il messaggio del re, le due autorità importanti, caro Alberto, in questo momento in Spagna chi sono? Il re e Piqué, il capitano del Barcellona, che è diventato il simbolo della rivolta. Ma da sempre il calcio gioca un ruolo importante nelle autonomie. Ma catalane. Mai come questa volta, eh? Eh sì. Perché è diventata la bandiera, il simbolo della rottura, il bersaglio di tutti gli insulti. Sai che gli ultra del Barcellona, del Barça, tutte le volte che si arriva al minuto 17.14 secondi della partita, perché ricorda il 1714, certo, l'assedio, sventolano bandiere autonomiste, insomma, e che quindi è, da questo punto di vista, qualche cosa di più di un simbolo sportivo. E questa cosa mi preoccupa un po', sinceramente, questo tribalismo sportivo. E poi ne parleremo fra un attimo. C'è la storia che mi fa godere del sottosegretario che si è dovuto dimettere dopo lo scoop delle Iene sul... Vabbè, ma lo diciamo fra un attimo. Andiamo infatti a godere con il fritto misto. Dico al sindacalista e dico alla deputatessa: non è possibile che si vada avanti con questi guazzabugli e con questi temi. Guardi che deputatessa, secondo me, non glielo passa nemmeno la bollina. Ah, io lo continuo a dire. E questo era Domenico De Masi, deputatessa, e lo diceva alla deputata del PD Irene Tinagli. Ma ormai c'è la polemica sull'onomastica, deputato o deputatessa, boh, decidete voi. Volete lo Stato in cui siamo tutti bianchi e ci assomigliamo tutti, ma siamo impazziti. L'orologio della storia non lo mandiamo più indietro. Tu vorrà sei andato a Londra e ti sei innamorato di questo melting pot, ma non è che se piace a te. Fantastico, formigli contro di Stefano a casa Paolo. Io so che a te Londra ti ha sempre fatto un'immensa tristezza, lo so, ti piaceva Londra. Però diciamo, conosco un po' di persone che dagli anni 70 si sono molto divertiti ad andare a Londra, insomma, però ti faceva tristezza. Vabbè. No, a me è piaciuta. Tutti i gusti sono gusti. No, ecco, Corrado, il discorso è questo, cioè, nel senso, se tu ti sei innamorato di una visione, poi non è detto che... Ma non è la mia, dai, Londra è stato un modesto. Che duello era un duello che segue a quello fra Mentana e presidente Di Stefano, ma era, questa volta era un modello nel contenuto, nel merito, cioè su due diverse visioni, la visione dell'immigrazione ovviamente e anche la visione dell'identità nazionale. A Casa Pound, pensate, si dibatte a Casa Pound. E andiamo alla Boldrini, miopia non approvare lo Ius Soli. Ma io credo che questo provvedimento non debba essere chiamato Ius Soli, perché Ius Soli vuol dire che una persona nasce in Italia e diventa italiana. Non è questo, la legge non dice questo. La legge dice che un bambino deve fare un percorso prima di diventare italiano, un percorso di studi di almeno 5 anni, e i genitori devono essere lungo residenti, cioè vuol dire che hanno un permesso di soggiorno di almeno 5 anni. Quindi ci sono delle condizioni, e questo provvedimento è un provvedimento molto equilibrato. Non approvarlo secondo me è un segno di miopia, perché non approvarlo non è uno Ius Soli. Padoan, sapete che sta esplodendo, la maggioranza se ne va, la sinistra almeno nel suo sostegno pieno alla maggioranza di Padoan, e guardate il ministro Padoan cosa dice sul DEF. Dentro la cornice di politica economica qui descritta è avviato un percorso con le forze di governo: Partito Democratico, Movimento Democratico e Progressista, Alternativa Popolare e gli altri gruppi, volto a definire ipotesi di intervento in maniera di investimenti, lavoro, lotta alla povertà e salute. È fantastico capire che nel momento in cui il ministro magnificava questo percorso, il percorso si è interrotto perché un pezzo se n'è andato. Quelli di MDP dicono che c'è poca spesa sociale, poca attenzione alla sanità, alle pensioni, e su questo vedremo che c'è un nodo molto importante oggi, perché si parla addirittura di innalzamento dell'età pensionabile. Salvini litiga con un giornalista. È incredibile la dimostrazione dell'inutilità delle... Sono sconcertato dal fatto che stamattina pensavo se ne parlasse, invece abbiamo parlato dei tonni, ma non della Catalogna. In realtà stamattina si è parlato di Brexit, domani si parlerà sì. Di Catalogna, forse lei non era presente in aula durante il dibattito. Se lei ha voglia di far politica, si candidi e faccia politica. Io ero presente in aula, ho votato per la Brexit, l'ho sostenuta, rispondo alle domande del collega giornalista se voglia di fare domande. Se lei voglia di far politica, si candida e poi fa politica, va bene? E ci confrontiamo da politici, grazie. Un dialogo fra un migrante e un volontario, un video girato con il suo cellulare: i migranti non vogliono andare a Lampedusa, se mi porti lì è come portarmi a casa, dice uno di loro. A questo punto comincia una trattativa: noi dobbiamo andare in Sicilia, che facciamo a Lampedusa? Guarda, sentite. Se io ci torno, tu mi segui, ascolta, tu mi segui. Allora, è la stessa cosa, ma cosa stai dicendo? Se mi porti a Lampedusa mi stai portando a casa. Cosa stai dicendo? Dove sei? Un centro di ricchezza. Guarda, tu hai dimostrato di collaborare, prima ti ascoltiamo, ti aspetto, ti guardi là. L'abbiamo detto, potremmo andare in Sicilia. Ci lascio andare in Sicilia, Lampedusa. Lo so, anche Lampedusa lo so che fa parte di Sicilia, però ci fai partire. Non volevano andare a Lampedusa, volevano proprio andare in Sicilia, volevano toccare terra. Abusivismo, c'è una lite forte fra Bonelli e il sindaco. Il Bonelli, il segretario dei Verdi, se la prende col sindaco di Casola, Peccerillo, in piazza Montecitorio, mentre si discute il fantomatico disegno di legge Falanga sull'abusivismo. Questo paese premia sempre. E poi la notizia di notizie: ieri D'Alema a carta bianca finalmente ha chiuso, e il paese era in ansia, la polemica con l'allenatore della Roma Di Francesco. Dopo un fuori onda in cui sembrava che mettesse in dubbio le sue qualità, si scusa ufficialmente. Sentite, ieri da Bianca Berlinguer. Vediamo con lei che dice qualcosa di romanista. Da romanista devo dire questo, che sono chiedo scusa a Di Francesco perché è una persona seria, perché è stato protagonista di una grande stagione della Roma nel passato, quindi la sua figura di calciatore è legata ad una grande Roma del passato, dello scudetto, e perché sono convinto che insomma progressivamente sta prendendo piede, sta imponendo il suo stile, quindi il mio era stato un giudizio affrettato. Allora, ti ricorderai, per questo per dire quanto è importante è la prima volta, che sento D'Alema chiede, dire che ha giudizi affrettati. No, è la prima volta che chiede scusa, cioè sono tante prime volte. Sì, perché quando uscì questo video, questo fuori onda di Repubblica, lui disse non ero io che avevo detto quella frase, anzi stima Di Francesco, non ero io, sono disposto a incontrarlo. Adesso siamo arrivati proprio al revisionismo più importante. La cosa interessante, D'Alema sta sempre più somigliando a Scalfari, cioè il potere pontificale di pontificare su tutto, perfino sull'allenatore della Roma. Però D'Alema è quando interviene, ha un suo prestigio, una sua autorità, dopodiché è incredibile che ci sia questa cosa. Che cosa può accadere il giorno in cui D'Alema chiede scusa? Può accadere qualunque cosa. Sì, perché di fatto rivela una... D'Alema, se si può usare il latino a quest'ora del mattino. Ma certo. D'Alema è stato fortissimo per utilizzare una cosa che è lo spettro di questa Repubblica, la potestas impediendi, cioè il potere non di fare le cose, ma di non farle fare agli altri. Questo è sempre stato, lo vedi quello che sta succedendo tu adesso. Tu stai facendo dell'antidalemismo travestito da citazione Colt. Io sono un profondissimo... Vuol dire che ha un potere di veto. È un potere di veto immenso. Per esempio il fatto che adesso con la strappo MDP, no, sul DEF del governo Gentiloni, l'ordine di scuderia sia trattare caso per caso, cioè ogni caso che tratta il governo deve passare da questo tavolo. Questa è la potestas impediendi, la potestas di non far fare, che D'Alema ha sempre usato genialmente, nel senso che riesce a essere maggioranza morale anche di se stesso, come dire, anche quando ha posizioni di minoranza. È una grandezza politica, io sono un profondo ammiratore della sua arte. Capacità. Assolutamente. Allora, si è discusso molto in questi giorni del silenzio del re. Ieri il re della Spagna ha parlato e è esplosa la polemica, perché non ha citato le violenze, non ha citato i feriti, è stato considerato da ovviamente chi è catalano e chi parteggia per la causa catalana come un video schierato da una parte e non quello di un arbitro. Ma il re si è comportato in maniera costituzionalmente corretta se lo guardiamo alla sua funzione di garante dell'unità dello Stato, uno Stato che tra l'altro con le comunità autonome ha autonomie provinciali e regionali fortissime. Certo però se fosse stato veramente il re di tutti gli spagnoli indipendentemente dalla lingua o dalle cose, avrebbe dovuto dire mi dispiace che una questione di questo genere sia travalicata fino a violenze di piazza, cioè mi dispiace perché... c'è una specie di, chiamiamolo così, golpe costituzionale gestito dai nostri cugini catalani, ma mi dispiace per le violenze, e invitare alla trattativa, alla calma. Invece ha assunto posizioni decisamente castigliane, cioè la corona di Castiglia, nata dal matrimonio di Alfonso d'Aragona con Isabella di Spagna nel 1492, in qualche modo c'è continuità dinastica. Io sono la corona e sono castigliano. Obiettivamente sugli scontri di piazza non si può sorvolare, come sappiamo, nel senso che lo sai che però è uscito fuori che c'erano anche delle fake news oggi sui giornali. Ci sono in alcuni casi di foto ritoccate, sono state aggiunte oppure sono state prese delle foto di altri scontri, quindi è una battaglia di simboli molto importante. Di fatto guarda la freddezza con cui è stata accolta la questione in tutta Europa, no? La Catalogna che dice di voler deferire alla Corte Europea dei Diritti Umani la Spagna, la corona, mentre i governi europei hanno reagito in maniera freddina, cioè si tratta comunque di violenze e di ordine pubblico esercitate in maniera dura, ma vediamo anche qual è il ruolo di garanzia che la Guardia Civile spagnola ha nei confronti dell'unità costituzionale. Ricordiamoci dei nostri quindi moti. Tu ne hai disputa fra me e Oscar Giannino, fra diciamo unionisti e separatisti. Oscar, come sai, è molto catalanista in queste ore, sei più spostato verso l'unione, l'unità della Spagna, come che, bene da salvaguardare? Ma quello che io cerco di vedere sono i fatti, cioè nel 2006 e poi con ritocchi del 2010 è stato approvato un statuto di autonomia catalana che dà alla Catalogna un'autonomia quasi totale. La Catalogna gestisce anche un sacco di quattrini. La metà dell'IVA, tutte le imposte dinastiche. E quindi, insomma, già, che ne so, il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, starebbe non contentista, sarebbe contentissimo se gli venisse data la metà dell'IVA dei Lombardi. Ecco, obiettivamente si doveva non travalicare fino a questo punto, ma la Costituzione spagnola riconosce autonomia immensa ai catalani. Poi i disordini di piazza sono dovuti al caso politico che conosciamo, al fatto che... Allora, ancora oggi 349-238-6666 per intervenire. Ci fermiamo per le strade in diretta e torniamo dopo un istante. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Mattino. I già svegli. Sono sveglio da 45 anni a questa parte alle 5:15, perché mi alzo, mi vesto e vado a lavorare. Sono un ospedaliero e tutti i santi giorni mi sparo 150 chilometri per andare e tornare dal lavoro. 150 km al giorno, pivello, io ne faccio almeno 400. Ciao, sono Luca da Stretto San Giovanni, 19:40, tornato ora dal lavoro. Cosa c'entra con i già svegli? Non lo so, forse nulla, ma mi alzo tutti i giorni alle 5:45 per fare 100 km, come dal 2001. Scusi, non è che è in pericolo anche l'Italia con questi due referendum che abbiamo? Una nazione deve stare unita, perché altrimenti va tutto allo sfascio. Perché noi siamo vecchi vecchi, diciamo io e mio marito, ma noi in mezzo a quel caos qui lasciamo i figli e i nipoti. E allora ricordatevi, se volete aggiungere a questo racconto il vostro, c'è sempre la nostra segreteria anche per insulti, lodi e altre osservazioni. 02 465 244 92. Allora ricordiamo Tom Petty. C'è stata ieri polemica di alcuni ascoltatori che ci dicevano, mentre davamo la notizia che era morto: guardate che è una fake news, perché non è proprio morto, è in fin di vita. Perché mentre lui era in fin di vita c'era la fake news che fosse morto. Poi è morto davvero, e quindi, Alberto, siamo dentro un circuito di paradosso per cui la fake news divora la real news. Ma infatti, però proprio tu che fai news da una vita, Luca, una news, una notizia, andrebbe verificata. Se un signore in ospedale lo chiede ai sanitari se è morto, magari qualcuno dei sanitari ha detto è clinicamente morto, sai quando si dice che una persona, quindi medicamente, da un punto di vista medico, è ancora vivo, però è in fin di vita. E da clinicamente morto a morto il meccanismo delle fake news si... insomma, nelle scuole di giornalismo si invita sempre a verificare le notizie due volte, a vedere le fonti, ma nel mondo delle fake news uno può morire, rinascere e rimorire in 24 ore senza che nessuno se ne accorga. Ed è una cosa antica, perché tutti ricordano la famosa battuta di Mark Twain, l'autore di Huckleberry Finn, che disse: la notizia della mia morte è leggermente esagerata. Esagerata, appunto. Allora, stiamo discutendo di tante cose insieme, però ovviamente, sai, c'è stata anche una bestemmia al Grande Fratello VIP. Ora, io faccio parte di quel pezzo d'Italia che dice chi se ne frega. Dopodiché è interessante questa cosa, si abbattono tutti i tabù, ma la televisione continua a avere, forse giustamente, questo tabù della bestemmia. Però si cerca sempre qualcuno che prima o poi una bestemmia la dice dentro reality e poi viene severamente espulso. In qualche modo, io dopo aver visto il mio amico Vittorio Sgarbi seduto sulla tazza del cesso in un servizio famoso che faceva i suoi bisogni, no? Non so se tu l'hai ma visto. Ma ti ha scandalizzato? Non è un'opera d'arte? È un'opera d'arte, diciamo, situazionista. Dopo la merda d'artista di Giacomo Manzoni. C'è la defecazione d'autore. Obiettivamente il tema del vilipendio, io mi ricordo un Leopoldo Mastelloni. Quella fu la prima bestemmia, no? Perché c'era ancora la grande Mamma Rai, c'era ancora, non c'era quasi, insomma, fu una bestemmia, fece discute credo per un mese, no, e Mastelloni chiuse la sua carriera. Eh certo, il punto è che il vilipendio della religione esiste, però anche il fatto che nei Grandi Fratelli si vede di talmente tanto di tutto che se il Grande Fratello deve rappresentare la vita quotidiana degli italiani, poi sai, io vengo da una famiglia un misto di Elba e Maremma, cioè noi toscani abbiamo voi bestemmiatori seriali, no, come dire, allora. ci parliamo spesso con Gesù, con le altre Madonne dando una nostra opinione. Ma non date nostra, questa lettura ci parlate bestemmiatori incalliti ora non voglio offendere alcuni, noi lo facciamo per un rapporto in cui manifestiamo la nostra disapprovazione verso il modo in cui Gesù, diciamo, scusami, ma stai disegnando come uno statuto speciale, cioè gli altri bestemmiano e voi dialogate con le divinità, no, gli altri grandi bestemmiatori che infatti sono religiosissimi sono gli alpini, c'è un famoso pezzo di Carlo Emilio Gadda che racconta questi alpini che portano gli asini in alta montagna con gli obici da un quintale, quando gli asini si impuntano sui sentieri montani cominciano a dire, dice Gadda, delle esternazioni ai superni, cioè agli dèi, classificati tra i suidi. Questo è il modo in cui Carlo Emilio Gadda rappresenta la... Qua ora non vorrei che riceviamo una nota di protesta degli alpini. No, però allora stavamo osservando, dentro il grande fratello VIP c'è lo scandalo per la bestemmia, c'è addirittura il ritorno della commedia sexy italiana, io l'ho definito così, insomma una doccia della povera Rodriguez è diventato elemento di scandalo, ma è tutto costruito, deve accadere, no? Perché se ne discuta. La formula è stanca, dopo l'isola dei famosi, ex famosi, VIP, eccetera, eccetera, il Grande Fratello è diventato una succursale dell'isola dei famosi. Ma li guarda veramente qualcuno questi reality? Cioè, o è il meccanismo dell'eccesso che succede nei reality a fare notizia? Io non ho in mano i dati dell'audience, non so se tu ne sai qualche cosa, ma la mia impressione è che queste cose vengano evidenziate tanto più quanto meno si fa audience. Se l'audience cala, abbiamo bisogno della bestemmia. Ma sa, assolutamente sì. E invece cos'altro hai visto che ti ha colpito nei giornali di oggi o nelle notizie di ieri? Questa rottura nel governo ti sembra una cosa seria? Ma mi sembra una cosa seria perché in qualche modo... No, una notizia che ho visto che mi ha colpito molto è la riconferma ormai quasi sicura, stante l'asse Mattarella-Gentiloni, di Ignazio Visco alla Banca d'Italia, che per quello che mi riguarda è una buonissima notizia, il suo grande tifoso è anche Mario Draghi in questo momento, ed è in qualche modo una sconfitta del nominismo renziano. Renzi è riuscito a rinominare e a rimodellare parecchi vertici di Stato, Parastato, e Consip, e Poste, e questo e quest'altro, e secondo me è in qualche modo la sancisce definitivamente, se Visco verrà riconfermato, il fatto che Renzi non è finito di certo, è giovane, è vivo, combatte, è segretario di un grande partito, ma è finito il renzismo, cioè il fatto che Renzi comunque debba fare le nomine e le sostituzioni. Allora, non per guastare il tuo idillio, ma proprio alla Banca d'Italia ci arriva una brutta notizia. Dicono che rifacendo i conti, la curva della natalità, tutte le condizioni, la curva dell'occupazione produrranno un dramma nel 2060, e allora questo insieme di fattori ci porta alla necessità di alzare la pensione a 70 anni, l'età della pensionabilità a 70 anni. A me pare un po' una follia, nel senso che non ne discutiamo tante volte, non che sia impossibile, ma i lavori devono essere diversi, ci sono dei lavori che non possono essere svolti fino a 70 anni. Ma infatti io parlai di curva della cecità e dell'incapacità di capire la trasformazione del lavoro. Per esempio il mio amico sociologo Domenico De Masi spiega spesso che la maggior parte dei lavori ormai non sono lavori materiali, però si fa ancora il manovale, si fa ancora l'operaio, non sempre in condizioni. Si guidano i camion nella notte. Noi vediamo queste fabbriche intelligenti in cui fanno tutti i computer, è una minchiata, in molte piccole e medie imprese italiane si lavora con le mani e si lavora pesantemente. Quindi io sono sicuro che Luca Telese a 75 anni sarà ancora un brillantissimo. Io voglio stare nell'atollo, caro Alberto, farai delle corrispondenze al via tuo internet. Fianco tu stai col bicchiere e con la cannuccia, e come quelli che ci ascoltano voglio stare nell'atollo a riposarmi. Io voglio andare in pensione a 90 anni. GR